Focus Economia. È 17:07 minuti e 48 secondi. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Naturalmente la giornata e l'attenzione, come è ovvio che sia, è puntata sulla vicenda di Mirafiori, sul referendum al quale sono chiamati a votare gli operai per decidere sull'accordo raggiunto tra l'azienda e gran parte dei sindacati, se si fa eccezione per la FIOM, per una maggiore produttività e con regole diverse per i lavoratori e per gli operai, a fronte di un investimento di oltre 1 miliardo di euro per produrre, lo ricordiamo, auto a marca Alfa e Jeep destinate un po' a tutto il mondo. L'attenzione è puntata là, quindi toccheremo questo tema, sentiremo le voci che arrivano da Mirafiori, ma non solo, anche le valutazioni politiche che sono arrivate in giornata di Silvio Berlusconi, ma anche del leader del PD, Pierluigi Bersani, e poi però naturalmente parleremo anche del tema delle immatricolazioni, perché anche oggi sono usciti i dati europei e le cose per Fiat non sono decisamente andate bene, un tema che ricorderete affrontato anche in parte Sebastiano Barisoni nei giorni scorsi. Insomma, si diceva che in sostanza c'è un problema dal lato dei modelli. Parleremo di Fiat, parleremo di Intel che oggi ha diffuso i dati, che ieri, o meglio stanotte, ha diffuso i dati che sono particolarmente positivi, e parleremo in conseguenza naturalmente anche di mercati. La giornata di oggi in questo momento è positiva. A Milano il FTSE MIB guadagna lo 0,82%, il FTSE Share lo 0,71%, borse europee poco per nulla confortate, da Wall Street che guadagna appena lo 0,19% sul Dow Jones e lo 0,34% sul Nasdaq. In forza anche lì qualche dato che forse il mercato non ha capito bene come interpretare: le scorte delle imprese che crescono di uno 0,2%, appena sotto le attese, la fiducia dei consumatori del Michigan, misurata dal Michigan, che scende, e poi la produzione industriale, un più 0,8%, lievemente superiore alle attese. Parleremo di questo, avremo modo di parlare anche di turismo e di vino, e sentiremo anche un'intervista che abbiamo realizzato questa mattina col premio Nobel per l'economia Michael Spence, con il quale abbiamo fatto un punto sull'economia in generale, sulla situazione economica in generale e anche sulla situazione europea. Tra le altre cose che ci dice, che intravede ancora qualche rischio di contagio a causa dell'indecisione da parte dell'Europa. Il numero per intervenire è quello di SMS, è il 349-238-6666. Le notizie in breve di questa giornata. Come sempre iniziamo dalle materie prime. L'oro in rialzo sui mercati asiatici, un più 0,2%, e un petrolio che apre in calo a $90,68 a New York. Mentre invece per quanto riguarda la benzina si segnalano ancora rialzi, proseguono gli aumenti. Oggi per quanto riguarda la verde è stata sfondata la quota di 1,50 euro al litro. A muoversi sono state IP e Kuwait. La media nazionale va dall'1,488 euro al litro degli impianti Eni all'1,50 di Tamoil. Tra l'altro, con l'Unione Petrolifera che dice gli attuali livelli di prezzo dei carburanti sono in linea con quelli degli altri paesi europei, dove si è assistito ad aumenti anche maggiori legati alla forte ripresa delle quotazioni internazionali sia del greggio che dei prodotti raffinati, una posizione tra l'altro che nei giorni scorsi è stata espressa anche dal ministro dello sviluppo economico Romani. Notizie dalla Cina, la banca cinese dice c'è l'impegno ad aumentare la flessibilità del tasso di cambio dello yuan, spingerà ancora di più per l'apertura dei suoi mercati finanziari. Bisogna dire la verità che questa storia l'abbiamo sentita parecchio e spesso in quest'ultimo paio d'anni, poi bisognerà vedere che cosa accadrà, la prova dei fatti. Nel frattempo Pechino ha varato una nuova stretta sulle riserve obbligatorie delle banche, la Banca del Popolo della Cina ha comunicato un aumento sui requisiti di riserva di 50 punti base a partire dal 20 gennaio. E a proposito di banche, ci sono i dati di JP Morgan Chase. Ha chiuso il quarto trimestre del 2010 con un utile netto superiore alle attese e pari a 4,8 miliardi di dollari dai 3,2 dello stesso periodo dell'anno scorso. Utile netto aumentato del 47% rispetto allo stesso periodo del 2009 grazie ad un calo delle perdite legate ai mutui naturalmente e alle carte di credito. E poi ci sono le notizie dall'Europa. Come vi abbiamo raccontato, tutto sommato le aste di titoli di Stato in questa settimana non sono andate male né per il Portogallo né per la Spagna, tantomeno per l'Italia. Arriva comunque la notizia che il governo spagnolo potrebbe ricapitalizzare le casse di risparmio del paese con almeno 30 miliardi di euro. Questo è quello che scrive il quotidiano El Confidencial, che cita voci vicine al dossier. Il quotidiano scrive anche che l'ammontare potrebbe raggiungere però gli 80 miliardi in casi estremi. Ancora dalla Spagna, il dato sull'inflazione accelerato è salito al 2,9% su anno dal 2,2% precedente. E un dato sull'inflazione arriva anche dalla Germania, tra poco toccheremo anche quello dell'Italia, un più 1,9% dal più 1,6% di novembre. È stato confermato il dato della prima lettura ed è il rialzo più forte da ottobre 2008. Tra l'altro abbiamo parlato spesso delle tensioni che riguardano i mercati delle materie prime in assoluto. Vediamo anche che è conseguenza anche in parte di tutto questo, di questi rincari delle materie prime, quel che sta succedendo in Tunisia e che i nostri GR vi stanno raccontando ottimamente. La tensione sui prezzi si fa sentire anche in India. A dicembre l'inflazione è salita dell'8,4%, un aumento di quasi un punto percentuale rispetto a quella che si era registrato il mese precedente, più 7,5%. Naturalmente a farla da padroni i generi alimentari, più 11%. Il dato italiano è la conferma del dato preliminare ed è parallelo a quello tedesco, ossia un più 1,9% in dicembre al top dal 2008. Qua a dominare tutto è la benzina, più 9,9%, il gasolio più 14,5%. Tra l'altro ieri su questo tema ci sono state delle dichiarazioni del presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, e qua ci riferiamo anche a quel che dicevamo sull'India. Dice: in vari paesi emergenti comincia ad affacciarsi una minaccia inflazionistica, un fenomeno che la Banca Centrale Europea deve prendere in considerazione. Sempre Trichet parla dell'Italia e dice: se l'Italia e la Spagna continueranno a darsi delle politiche fiscali credibili, continueremo a vedere progressi anche sul mercato dei titoli di Stato. E poi, nel caso dell'Italia, il maggior problema per la crescita visto dall'esterno è la produttività del lavoro. Non a caso è di questo che si parla a Mirafiori in queste ore. Ancora all'Istat, a novembre 2010 le esportazioni italiane sono cresciute del 20% rispetto allo stesso mese del 2009 e dello 0,9% rispetto ad ottobre. Le importazioni hanno registrato aumenti ancora superiori, più 28,3% su base annua e più 1,5% su base mensile. Disavanzo commerciale a 3,4 miliardi di euro, un valore più che triplo rispetto a novembre del 2009. Tra l'altro ci siano dati positivi sulle esportazioni di vino, ne parleremo più avanti nella seconda parte del programma. Nel frattempo vediamo quello sulle armi. L'Italia è il primo esportatore al mondo di armi non militari nel quadriennio 2006-2009, il secondo esportatore di armi leggere civili e militari dietro gli Stati Uniti. È quello che afferma uno studio di Ires Toscana, secondo cui l'export italiano di armamenti ha registrato una crescita del 61% nel 2009. Ancora l'economia italiana e parliamo della moratoria per le imprese. Stiamo lavorando alacremente per trovare una soluzione, così il presidente dell'ABI Giuseppe Mussari, interpellato da Eleonora Micheli di Radio Corriere Sole 24 Ore sulla scadenza appunto del 31 gennaio della moratoria. Ascoltiamolo. Beh, è migliorato, abbiamo più strumenti, no? Il fondo per le PMI, la gara sul medio credito centrale, insomma, come nella parte che riguarda il fondo di garanzia nazionale. Quindi secondo me abbiamo più strumenti e questo aiuta a trovare soluzioni dopo la moratoria. Ma io capisco che ci sia grande interesse perché il 31 gennaio scade, ma guardate che è proprio un lavoro sereno, cioè non ho... D'altra parte abbiamo iniziato a parlare a Gubbio con Boccia, col dottor Boccia, se ricordate. Abbiamo continuato a lavorare, abbiamo questo tavolo al Ministero, arriveremo prima del 31. Intanto il presidente di Rete Imprese Italia, Giorgio Guerrini, in una lettera al ministro dell'economia Giulio Tremonti, in vista proprio della scadenza del 31 gennaio, presenta una serie di proposte per accompagnare le imprese nel percorso di uscita dalla crisi, privilegiando iniziative di crescita e di sviluppo rispetto ad operazioni di semplice copertura di perdite relative a finanziamenti pregressi. Torniamo a Mussari, che poi ci porterà all'apertura del primo tema di giornata, che come potrete ben immaginare è Fiat. È stata fatta al presidente dell'associazione bancaria una domanda sulla vicenda Mirafiori. Ha preferito Mussari andare al di là del caso specifico di Fiat e parlare più in generale dei rapporti tra imprese, lavoratori e non solo. Ascoltiamolo. Il 2010 è andato molto meglio del 2009, da meno 5 a più 1. Certo, la velocità della nostra crescita non è rapportabile alla velocità della caduta, quindi da questo punto di vista dobbiamo migliorare, però per migliorare o ci mettiamo dentro elementi profondi di discontinuità o è difficile immaginare che continuando a fare le cose come le facevamo prima noi acceleriamo. Rispetto a questo è un paese che non è immobile, no? Lo sforzo delle parti sociali, la riflessione di stamattina, cioè ci si interroga su come si può fare meglio, quindi bisogna essere profondamente ottimisti. Eviterei di parlare di cose che non conosco nel merito, perché direi una cosa veramente così un po' sulle punte. Credo che ci vogliano elementi profondi di discontinuità, perché quello che ci ha accompagnato per gli anni passati, peraltro con crescite inferiori a quello che il resto d'Europa esprimeva, e purtroppo è entrato in profonda crisi, anzi da noi in maniera relativa, ma nel mondo è entrato in crisi. Quindi il campo da gioco è cambiato e ci vogliono tacchetti diversi. Noi dobbiamo lavorare di più, produrre di più, creare più ricchezza, cioè è un tema delle imprese, delle banche. Se aspettiamo di fare le riforme, di fare le infrastrutture, tutte cose indispensabili e necessarie, di fare tutto quello che manca, il tempo se ne va e noi non abbiamo tanto tempo. E veniamo dunque al primo tema di questa giornata, che naturalmente è proprio Fiat. Nel frattempo ci chiedete di come stanno andando Parigi e Francoforte. Parigi guadagna lo 0,26%, Francoforte cede lo 0,06%. In questo quadro, con Londra che lascia sul terreno lo 0,31%, ci sembra che complessivamente Milano è più o meno quella che si sta comportando meglio. Saluto Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore, che è più o meno a ridosso ai cancelli di Mirafiori. Marco, buonasera. Sì, buonasera Simone. Allora, vediamo di fare un punto della situazione e da questo vorrei partire. Ti chiedo molto brevemente com'è il livello di votanti, che cosa ci si attende, insomma un quadro di pura cronaca di quel che succede da là. Marco. Dunque, siamo in grado di dare qualche numero, perché a quest'ora diciamo che si sono concluse le operazioni di voto dei primi due turni, quindi il turno della notte, quello diciamo a cavallo appunto della mezzanotte e il primo turno di oggi. L'affluenza è molto alta, intorno al 98%, quindi quando manca ancora il terzo turno, quello che ha iniziato a votare circa un'ora e mezza fa, si è già superato il 56% del totale. Dunque un'affluenza molto alta, più alta di quella registrata a Pomigliano, ed è questo un dato che ha fatto sbilanciare leggermente i sostenitori del sì, perché secondo loro se tutti vanno a votare anche i moderati, dunque secondo loro questo è, diciamo, un dato di vantaggio appunto per l'approvazione dell'accordo. Allora Marco, facci un po' di agenda, dici che cosa dobbiamo aspettarci per la giornata, per la notte, quando avremo i risultati? Sì, beh, dunque la notte si preannuncia lunga perché, come accennavo prima, adesso sono in corso le votazioni per il secondo turno, che si chiuderanno poco prima delle 19. A questo punto si insedierà, diciamo così, si inizieranno le operazioni di scrutinio che dovrebbero andare avanti, si crede, almeno fino alle 11, alle 23, fino anche alla mezzanotte. Anche perché, e su questo i sindacati, FIOM compresa, sembrano aver trovato un accordo, l'intenzione e la volontà è quella di non far uscire nessun numero finché non ci saranno quelli definitivi, se non altro per evitare quanto era accaduto a Pomigliano, quando erano già usciti dei dati parziali, però erano dati relativi alle schede degli impiegati, che quindi lasciavano intendere una vittoria del sì ben più ampia di quella che poi non si era rivelata. Dunque un dato solo, quello definitivo, che, come ripeto, si prevede non prima delle 23, forse anche la mezzanotte. Bene, grazie a Marco Ferrando in collegamento da Mirafiori e quindi da Torino, dallo stabilimento di Mirafiori. Buonasera Marco. Buonasera a voi. E veniamo adesso a qualche testimonianza, poi veremo le voci politiche, poi toccheremo naturalmente anche il tema delle immatricolazioni e dei modelli, sul quale vedo che inizia già ad arrivare qualche messaggio. Dunque sentiamo un po' di sì, un po' di no, un po' di incerti, insomma sentiamo qualche operaio nelle voci raccolte tra ieri sera e questa mattina dal nostro inviato Paolo Piacenza. Io sono un RSU della WILM che lavora nel turno di notte. Si comincia, noi siamo i primi a votare e io sono sul sì, perché comunque la situazione è molto critica. Sono per il rilancio dello stabilimento di Mirafiori e tutto l'indotto. Credo che al di là di Marchion, che chiaramente c'è una prospettiva comunque, perché se non ci fosse Marchion... Abbiamo tutte le idee confuse, cioè. Non sappiamo se votare sì, se votare no, cioè cosa ci dà il sì, cosa ci dà il no. Cioè garanzia non ce n'è, anche perché gli investimenti, noi non è il primo giorno che lavoriamo qua, dopo 25 anni che lavoriamo qui dentro, ne abbiamo vissute di cotte e di crude. Quanto durerà? Un mese, due, un anno, tre anni? E poi dopo punto da capo di nuovo. Come mai i modelli di punta vanno all'estero? Tipo la nuova Y, perché non la facciamo noi la nuova Y? Un altro accordo è possibile, un accordo dignitoso. Ciao. Basta votare no! Ha già detto la sua collega, le ho già spiegato qualcosa a sua collega. E semplicemente mi dica se voterà. Io voterò no, perché è un fardello troppo grosso, che 5.000 persone che dovrebbero portare, diciamo, sulle spalle, perché no, noi non possiamo giudicare il futuro dell'Italia, come dicono loro, perciò è una cosa sbagliatissima, io voterò no. Poi la questione mi interessa in prima persona perché sono addetta alla catena di montaggio, lavoro in Fiat da quasi 14 anni, so cosa vuol dire lavorare in linea e quindi mi assumo la mia responsabilità. Votando il no dimostro a Marchionne che i suoi ricatti non mi piacciono e che se vuole riaprire il tavolo della trattativa con noi lavoratori del no, sono pronta. Perché? Così vediamo lui cosa fa. L'ha detto Gamberini, hai visto? Deve cambiare la sinistra, perché devo cambiare io? Perché vota sì? Per conservare il posto di lavoro e dire a questa gente che è ora di smetterla di fare politica ma fare gli interessi degli operai. Quindi si fida di Marchionne? Certo. Io sono 32 anni che sono qua, non comincio oggi a sputare nel piatto dove ci ho mangiato 32 anni. Non mi ha arricchito ma mi ha dato la possibilità di mantenere una famiglia, di crescere dei figli. C'è chi dice che però le condizioni di lavoro diventano impossibili in fabbrica. Non è vero, non cambia molto. Ecco qua, queste alcune delle voci da una parte e dall'altra che sono state raccolte dal nostro Paolo Piacenza anche in risposta a chi dice la redazione rossa di Radio 24 vota Landini, ma figuriamoci. Siamo alla parte politica delle dichiarazioni di oggi, ascoltiamoci dunque innanzitutto il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi al programma Mattino 5, che ribadisce il suo sostegno alla linea Marchionne. Io penso che vincerà con una percentuale piuttosto elevata il il sì e quindi che vincerà il buon senso. Io non ho mai nascosto ciò che penso della Fiat e l'ho detto molto chiaramente già in dicembre, molto prima del referendum che appunto si sta svolgendo oggi. Io ho detto delle cose di buon senso dettate dalla mia esperienza, e cioè che l'accordo su Mirafiori tra Marchionne e i sindacati a vocazione riformatrice come la CISL e la UIL è emblematico di ciò che serve in futuro per tenere aperte le fabbriche in Italia, non per chiuderle, come accadrebbe se passassero le rivendicazioni ideologiche della FIOM e della CGIL. E invece di insultare, Bersani dovrebbe farsi spiegare dal sindaco di Torino, che è il suo compagno di partito, che l'accordo Fiat dimostra che se mettiamo la cultura della cooperazione tra imprenditori e lavoratori al posto del conflitto sociale, si possono mantenere le fabbriche in Italia, si possono conservare i posti di lavoro e nello stesso tempo aumentare le retribuzioni. E poi io a Berlino ho aggiunto a queste considerazioni che avevo già fatto a dicembre una considerazione di puro buonsenso. Ho detto, se a Torino dovesse vincere il no, sarebbe difficile per l'azienda trovare ragioni valide, cioè l'azienda, gli imprenditori avrebbero delle motivazioni buone per dire non restiamo in Italia, andiamo in altri posti dove le condizioni con i lavoratori sono diverse. Non ho detto giusto che la Fiat vada via come hanno riferito come al solito i giornali di sinistra. Vede, l'Italia è ancora uno dei primi paesi al mondo per forza economica e noi lavoriamo come governo ogni giorno perché continui adesso da pieno titolo nella democrazia e nella libertà, e per questo appoggiamo Marchionne e i sindacati che hanno un forte senso di responsabilità nazionale. Così dunque il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nella trasmissione di Canale 5 Mattino 5, 349-238-6666 per i vostri SMS. Questa invece è la risposta del Partito Democratico nelle parole del leader Pierluigi Bersani. Berlusconi è l'ultimo che può parlare di mercato, sia come imprenditore sia come capo del governo. Quindi io non accetto lezioni da Berlusconi sul tema mercato, sul tema concorrenza, sul tema competitività, sul tema regole del mercato. Perché il mercato, per essere tale, prima di tutto deve essere libero da conflitti di interesse, da posizioni dominanti e monopolistiche. Sulla Fiat noi abbiamo una posizione chiarissima, che rifiuta la tifoseria da derby. Noi abbiamo detto l'investimento ci vuole. Ci auguriamo che i lavoratori siano in grado di sopportare il costo, il peso sulle loro condizioni di lavoro per ottenere questi investimenti. C'è un pezzo di quell'accordo che non va bene, là dove si parla di meccanismi di rappresentanza, rappresentatività e partecipazione. C'è uno sfondo di quell'accordo che non va bene, laddove è totalmente assente una politica industriale sull'auto in questo paese, unico caso al mondo. Noi abbiamo un governo nella nebbia da 2 anni. Così il leader del Partito Democratico Pierluigi Bersani. Chiudiamo infine con il ministro del welfare Maurizio Sacconi, chiudiamo la parte politica naturalmente, come si diceva tra poco parleremo di modelli e immatricolazioni, con il ministro del welfare Maurizio Sacconi intervistato da Maria Piera Ceci. Un voto incerto, per molti aspetti imprevedibile, e che mi auguro ovviamente si risolva in una conferma dell'accordo raggiunto da CISL, UIL, UGL, FISMIC e Fiat, perché non si tratta di un referendum su Marchionne quanto su tutti i firmatari dell'accordo e soprattutto sul contenuto di quell'accordo, che ricordiamolo rappresenta un investimento decisivo per l'intera filiera dell'auto italiana, essendo Torino il cuore pulsante. Se vincesse invece il no, non si raggiungesse il 51%, cosa dovrebbe fare Marchionne? Non sta a me dire cosa debba fare Marchionne. Ovviamente io vorrei tanto che l'investimento si facesse comunque, ma è ragionevole pensare che bruciato il tavolo della maggioranza delle organizzazioni sindacali sia ben difficile aprirne un altro, e quindi è obiettivamente, ragionevolmente prevedibile un declino irreversibile non solo di Mirafiori ma a quel punto con ricadute sull'intera produzione automobilistica italiana e relativo indotto. Così il ministro del welfare Maurizio Sacconi. A chi ci chiede dei dati di Iveco e CNH, CNH non ce l'abbiamo sotto mano, Iveco l'ha diffusi 2 o 3 giorni fa, le consegne nel mese di dicembre sono state 1685, registrano un incremento di 7,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Saluto Paolo Malagodi, docente di economia dei trasporti all'Università di Ancona. Buonasera professor Malagodi. Buonasera Spezia. Allora, abbiamo una breve pausa e poi tocchiamo l'altro argomento caldo, che è quello delle immatricolazioni. Le 17:37 e veniamo all'altro tema che riguarda Fiat, il settore auto, ma Fiat in particolare, perché è di questo che vogliamo parlare appunto col professor Paolo Malagodi, docente di economia dei trasporti dell'Università di Ancona. Allora, i dati di oggi sono ancora una volta molto negativi, tra l'altro con Fiat che fa decisamente peggio del mercato. Il mercato europeo ha fatto un meno 4,9% nel 2010, meno 2,7% a dicembre. Per quanto riguarda Fiat parliamo di un meno 17% nel 2010, ma forse il dato più preoccupante è quello, come dire, su un mese, un meno 19% rispetto al meno 2,7% appunto dell'Europa. Allora, professor Malagodi, evidentemente è un tema che abbiamo già accennato nei giorni scorsi, c'è un problema di modelli, no? Assolutamente. Se noi consideriamo un calo sul dato 2010 complessivo di un gruppo come Fiat, che è di 3 volte tanto il dato medio europeo, e lei ha citato giustamente il dato di dicembre, che è ancora più preoccupante perché il relativo vantaggio di Fiat perso rapidamente si è avuto nei primi 3 mesi del mercato italiano, nei quali arrivavano ancora le code di ordini fatti nel 2009 con incentivi, con la possibilità di immatricolare nel 2010. Finito questo periodo è stato un rotolare su una china sempre più in discesa per tutto il gruppo Fiat, in particolare per il marchio Fiat come tale, che se guardiamo il dato europeo, che per il gruppo complessivamente passa da 8,7 a 7,6, parlo di anno 2010 su 2009. Se ci riferiamo Fiat, naturalmente, no, professore, lo precisiamo, alla quota di mercato, insomma, un passaggio, sì, appunto. Sì. La quota di mercato, parliamo dello share, quella che prendiamo a quota di mercato. Sì. E il gruppo Fiat che perde questo 1%, perché passa dal 7 dell'anno precedente al 6 di quest'anno, perché sostanzialmente il gruppo Lancia perde uno 0,1, il gruppo Alfa resta allo 0,8, quindi è Fiat che ha questa situazione di grande calo, ma la si legge nei modelli, lei l'ha detto giustamente. Se noi corriamo la classifica dei 10 modelli più venduti a livello europeo, quelli che pesano davvero, questi dati saranno ufficializzati verso il 20 del mese, quindi avremo l'inizio della prossima settimana, però possiamo già estrapolare che punto a malapena riesce a collocarsi al 10° posto con circa 260.000 unità vendute rispetto alle oltre 323.000 dell'anno scorso, un calo di un 20% sul modello, è un gioco di parole di punta che è l'appunto, e questo la spiega molto. Se poi guardiamo la situazione, diciamo che ci sono dei modelli come Golf che vendono 450.000 unità o Fiesta che ne vendono 400.000, noi siamo a 260.000 e a malapena al 10° posto. Se poi andiamo a vedere la situazione sui principali mercati europei e scorriamo i primi 10 modelli, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, non ce n'è nessuno che sia del gruppo Fiat, e così è in quasi la generalità dei paesi europei, con l'unica eccezione di un appunto che è al 4° posto delle vendite polacche, che contano quel che contano, e di un appunto ancora che è in Slovenia al 5° posto, ma lì abbiamo un peso davvero ridotto, e quindi è la mancanza di peso dei modelli. Se poi, per concludere, andiamo al segmento principale europeo, che a differenza di quanto è per l'Italia sono i segmenti delle utilitarie, delle city car, quindi Panda e Fiat e 500, dove Fiat fa bene, se andiamo a vedere il dato europeo, la nostra Bravo realizza in tutto il 2010 poco più di 42.000 unità. Si pensi che Golf, lo dicevamo prima, ne fa più di 450.000, pensiamo che la seconda del segmento può farne come Focus circa 250.000, Astra ne fa oltre 200.000, la Peugeot 308 ne fa 180.000, Megane ne fa 240.000. Ecco, questo confronto è molto punitivo sì. per un gruppo che non riesce a competere se non nei modelli A e B, se ha gli incentivi, ma quando questi cadono il mercato crolla a livello italiano e europeo e non siamo competitivi nel segmento C, non parliamo poi dei segmenti superiori. Allora, diciamo Claudio da Torino che ci scrive al 349-238-6666, perché ormai sta diventando un po' una sorta di, come dire, di appuntamento fisso questo di dire Radio 24, portavoce della sinistra. Allora, non è così, stiamo facendo dei numeri, il professor Malagodi li ha illustrati benissimo, mi sembra. Evidentemente c'è un problema di questo tipo. Finora abbiamo parlato solo di quello che è successo nel 2010, adesso col professor Malagodi andiamo a vedere invece che cosa ci si attende per il 2011 e 2012, perché su questo, su questi due anni che si gioca la sfida di Marchionne, non è sull'anno precedente. Prendiamo anche insomma, la battuta dell'ascoltatore che ci dice insomma, perché la Fiat deve avviare nuovi modelli quando non sa in quali stabilimenti farli. Anche questa non è male. Allora, professor Malagodi, le prospettive 2011-2012 a questo punto, che sono mi sembra il nodo centrale, il punto di svolta almeno nell'idea del piano di Marchionne. Aspetta, mi associo a quanto lei ha detto, perché quando uno dà i numeri, e io non do i numeri del Lotto, do dei numeri documentati dalle statistiche italiane, europee e mondiali, e questo è il mio mestiere, l'analista del mercato, non è che si schieri ideologicamente, dà delle sue ipotesi di lavoro supportate da fatti analitici, e quindi questo io farò anche per il 2011. Nel 2011 la situazione è estremamente grigia. 2011, lo dico subito, Fiat come gruppo stenterà a mantenere il 30% del mercato europeo perché punto non ha una sostituzione nel 2011, non c'è la Panda, 500 continua ad essere la gallina dalle uova d'oro perché i profitti di Fiat Auto si fanno su un mercato, quello brasiliano, e su un modello, quello 500, per il resto è buio, ma lo dico perché questo è il dato analitico. Quando avremo poi la Y, qualche piccolo vantaggio avremo, la Giulietta sta andando benino, però anche lì il dato europeo, e mi scuso se torno indietro, la sommatoria di Lancia e Alfa in tutto il 2010 a livello europeo è di 209.000 vetture, la sola Dacia, che è una marca inventata da Renault, ha fatto 263.000 unità, ecco, questo dà l'idea della differenza che c'è tra un produttore di volume, sia pure sì. con i marchi Lancia e Alfa, è quello che si deve fare. Nel 2012 tra l'altro, professore, adesso veniamo al 2012. Io intanto volevo precisare anche questo, che teniamo presente che noi al momento stiamo parlando e abbiamo parlato quasi esclusivamente dell'Europa. Lei ha citato giustamente il Brasile. Non dimentichiamoci che Fiat, appunto, è il primo produttore brasiliano, e non dimentichiamoci nemmeno il lato Chrysler, che in questa fase sta dando particolare soddisfazioni a Torino. Veniamo al 2012, professore. Allora, posso che nel 2011 avremo una compensazione, lei ha detto bene, dal Brasile, che continua ad andare con la direzione di marcia che richiede anche la costruzione di una nuova fabbrica sprombattuto, e Chrysler negli Stati Uniti. Il 2012 sarà l'anno vero di svolta, perché la nuova Panda a produzione a regime dovrebbe arrivare a quelle 300.000, ma sa, arrivare a regime significa anche avere clienti che la comprino per quei volumi, ma è possibilissimo, perché già quest'anno Panda a livello europeo fa 230.000 unità circa, quindi con una nuova Panda potremo andare su quelle dimensioni. Poi avremo sulle auto successive, la interrompo un attimo professore, abbiamo la viabilità, la riprendo subito dopo. Focus Economia. Allora, le 17:46 minuti, e le chiedo, professor Malagodi, di chiudere sui modelli del 2012, prego. Certo, d'accordo, sul 2012, contando che ci sia una capacità di Panda di portare nuova linfa al mercato delle utilitarie, resta aperto il discorso di una nuova Punto, che è un modello fondamentale su cui si regge o crolla tutta l'offerta Fiat, e credo che la risposta arriverà nel 2012. Non vedo una iniziativa nel segmento C, e questo forse è un mio lato di non conoscenza, ma nessuno l'ha annunciato, e questo è un altro problema. Però per quanto riguarda il marchio Fiat, su su modelli di volume, Pando o Grande Punto, come si chiamerà, andiamo abbastanza bene, così come Chrysler ha un suo andamento, così come avremo un supporto di prodotti Chrysler marcati Lancia ed Alfa, però anche lì avremo dei grossi buchi nella produzione Lancia ed Alfa per quanto riguarda una dimensione veramente che passi dalle 100 alle 300.000 unità indicate. E su questo punto non so quanto sia possibile mantenere ancora Alfa in quelle condizioni all'interno di Fiat piuttosto che cederla a un altro costruttore che abbia la capacità di investire grandi risorse per lo sviluppo di quel brand. Vedremo dunque che cosa succederà. Io intanto saluto il professor Malagodi che insegna all'Università di Ancona. Buonasera professore. Buonasera a lei. A chi ci scrive invece, perché non dite che se non firmano ci sono pronti paesi come Serbia e Romania che insomma appunto sono pronti a ricevere Fiat? Sì, lo diciamo, lo abbiamo detto spesso, insomma, è anche quello che ha detto lo stesso Marchionne del resto. E noi veniamo ad un altro argomento e a tutt'altro settore, anche se parliamo sempre di un settore industriale importante, ed è quello dell'high tech, nella fattispecie dei chip. Sono stati diffusi i risultati del quarto trimestre 2010 di Intel, dati positivi, i profitti più 48% meglio delle previsioni, trainati da un deciso miglioramento delle vendite, utili a 3,39 miliardi di dollari, 59 centesimi per azione in rialzo rispetto allo stesso periodo del 2009. Saluto Dario Bucci, amministratore delegato di Intel in Italia e in Svizzera. Buonasera Bucci. Buonasera a voi. Allora, abbiamo parlato fino adesso di un settore, se vogliamo, ciclico per eccellenza, diciamo così, che segue il ciclo economico in maniera abbastanza netta. Ecco, io ho l'impressione che il vostro settore, in generale, il settore dell'high tech, quello dei chip come per voi, ma anche quello del software, se vogliamo, stia diventando un po' il settore anticiclico per eccellenza, insomma. Voglio dire, in questi tre anni di crisi, per carità, li avete sentiti voi, come li hanno sentiti altri colossi del settore, però mi sembra che tutto sommato ne siate usciti con le ossa meno rotte rispetto ad altri settori industriali. Ma noi pensiamo che questo sia dovuto al fatto di aver investito comunque in ricerca e sviluppo e capacità produttiva anche in anni come 2008 e 2009 che non facevano presagire nulla di buono, e quindi trarre i profitti nel 2010 con prodotti nuovi nel momento in cui il mercato dà dei segnali di ripresa, approfittarne. Io penso che questa sia un po' la ricetta. Poi 2010 molto buono dal punto di vista di imprese, del ritorno degli investimenti IT delle imprese che si vedono in maniera coerente, mentre la seconda parte dell'anno ha fatto segnare soprattutto nella parte Europa occidentale e Stati Uniti un consumo tutt'altro che buono, che in salute. In Italia poi non ne parliamo, perché con il digitale terrestre e lo switch off dell'analogico abbiamo pagato anche ovviamente una competizione sul portafoglio di un consumatore non particolarmente propenso all'acquisto, e ovviamente abbiamo visto le vendite in discesa. Sì, i volumi quindi ci sembra di capire da quel che ci dice, come probabilmente immaginavamo anche, si stanno spostando in altri luoghi del pianeta. Ma il consumer sicuramente vede solo i paesi emergenti in questo momento, eccitati dal fatto che hanno raggiunto un nuovo potere d'acquisto. Si faceva il conto di quante mensilità servivano 5 anni fa per comprare un PC e quante ne servono oggi, ad esempio. Ce lo dice? Beh, si parlava di circa 6 mensilità 5 anni fa e con un paio oggi si possono acquistare, quindi ovviamente questo fa avvicinare... Questo per un cinese, mediamente per un cinese, lei intende? Sì. Prego. Questo invece, diciamo, fa capire che la parte invece enterprise, che la parte delle aziende è la parte che ha sostenuto il 2010, in particolare il quarto trimestre, anche in termini di marginalità, molte vendite di server, infrastrutture, e lo vediamo come tendenza anche nel 2011. Allora, qualche tempo fa abbiamo intervistato l'amministratore delegato di Microsoft in Italia che ci diceva che ha avuto dei segnali abbastanza forti, soprattutto nell'ultimo anno, del fatto che le piccole e medie imprese italiane stiano investendo sempre di più in tecnologia, e questo vuol dire anche sostanzialmente un cercare di rinnovarsi, innovare anche i propri processi, se vogliamo, oltre che la velocità dell'azione e della decisione. Avete avuto segnali di questo tipo anche voi? Beh, le piccole e medie imprese in Italia anche nel 2010 hanno fatto vedere qualcosa di buono. Diciamo che non sempre il dato è coerente, magari c'è un mese estremamente positivo seguito da un mese di forte rallentamento, ma nel suo complesso sicuramente le piccole e medie imprese italiane hanno investito di più e la tendenza è ad investire di più ancora nel 2011. L'information technology comincia a essere percepito come un elemento di competitività e questo è sicuramente positivo, soprattutto anche in questa tendenza al cloud computing, cioè un modello nuovo di interpretare l'erogazione dei servizi di information technology, che oggi è prerogativa fondamentale delle grosse e medie aziende, ma in un futuro potrebbe anche attrarre le piccole in un modello molto più flessibile di quanto non sia quello dell'acquisto proprio dell'hardware informatico portarselo in casa. Grazie dunque a Dario Bucci, amministratore delegato di Intel in Italia e in Svizzera, per essere stato con noi e buonasera. Grazie a voi, arrivederci. Allora, ci chiedete, tornando a Fiat, se sono attendibili o no le notizie diramate dalla stampa tedesca inerenti all'imminente acquisto di Alfa Romeo da parte di Volkswagen, una cosa della quale si è parlato a lungo. Mi sembra che da parte della Germania non abbiano nascosto un certo interesse, che siano vere queste voci oppure no, naturalmente non ve lo sappiamo dire, lo sapranno probabilmente Marchionne e l'amministratore delegato di Volkswagen. Siamo ai mercati. Paolo Paronetto, Radio Cuore Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, si diceva poco fa che alla fine, tutto sommato, Piazza Affari è stata la migliore in Europa. Sì, soprattutto sul finale il listino milanese ha allungato il passo, era stato attorno alla parità per gran parte della giornata, mentre ha chiuso con rialzi superiori al mezzo punto percentuale. A trainare la volata è stata fin dall'avvio Atlantia, poi magari ne parleremo più in dettaglio, ma anche i titoli delle banche sono andati quasi tutti bene, tranne il Banco Popolare, grazie in una tendenza avviata dai conti di JP Morgan negli Stati Uniti, che sono stati positivi e hanno sostenuto l'intero comparto finanziario. Anche Fiat, di cui parlavate già, ha chiuso oggi in deciso rialzo in attesa di novità appunto da Mirafiori. Sì, in tutto ciò naturalmente, Paolo, probabilmente avranno inciso anche le aste delle obbligazioni di Stato di questa settimana, che tutto sommato sono andate bene, insomma qualche timore sembra essersi dissipato. Certo, infatti per i listini europei è la quarta seduta consecutiva di rialzo ed è proprio dovuta, secondo gli operatori, a un clima più sereno sulla tenuta delle finanze pubbliche dell'Eurozona, proprio grazie al buon andamento e al successo delle aste di titoli di Stato, anche di quei paesi considerati più a rischio, in primo luogo il Portogallo. Allora, il quadro di giornata, diciamo, vede il FTSE MIB in guadagno dello 0,71%, il FTSE All Share dello 0,61%, l'America è ferma a come ve l'avevamo detta ad inizio trasmissione. Il Dow Jones guadagna lo 0,15%, il Nasdaq lo 0,28%, lo 0,3% circa, Parigi in guadagno dello 0,21%, Francoforte praticamente in perfetto pareggio, Londra che cede lo 0,31%. Allora Paolo, iniziamo dai singoli titoli, visto che siamo sul tema Fiat, ti chiedo di Fiat, poi ci saluteremo, daremo la linea al GR e poi ritorneremo per fare il punto sul resto della giornata ai mercati. Fiat. Per quanto riguarda Fiat, la chiusura è appunto positiva, il titolo ha guadagnato il 2,63%, a differenza di quanto ha fatto Fiat Industrial, che ha invece chiuso in calo dell'1,3%. Il mercato si concentra in queste ore proprio sull'attesa per l'esito del referendum a Mirafiori, che quindi toglierà incertezza sul futuro anche del piano di investimenti del Lingotto in Italia, e diciamo così ha più o meno ignorato il dato che è stato reso noto invece questa mattina Cina, mercato chiuso sulle immatricolazioni europee in dicembre e nell'intero 2010, un dato che per sì. Fiat è decisamente negativo, un calo del 19,1% sì. a fronte di un ne abbiamo, sì, sì, sì. Ne abbiamo parlato ampiamente. Nel frattempo, in tutto ciò, Fiat Industrial invece scende dell'1,29% ed Exor del 2,13%. Abbastanza strano che la controllante si comporti così. C'è un motivo particolare, brevissimo, Paolo? Sì, il report di un analista, Exxon BNP Paribas, che ha tagliato la raccomandazione sul titolo Exor, che quindi perde terreno. Ok, quindi 2,13% di calo per Exor. Scusami, Fiat Industrial invece? No, su Fiat Industrial non c'è nessun motivo, ha differenziato l'andamento rispetto a Fiat SPA, ma ricordiamo che dalla quotazione comunque il bilancio è ancora positivo. Bene, questo è il quadro per quanto riguarda Fiat, così direi che almeno per questa prima parte abbiamo esaurito definitivamente l'argomento del lingotto. Ci ritroveremo tra poco, sempre con Paolo Paronetto, per capire un attimo come mai Atlantia ha guadagnato il 5,13%, perché ha fatto così bene UBI Bank, e poi c'è qualche altra notizia che gira a partire da questo calo ancora una volta molto forte di Fondiaria Sai, giù del 5,45%. Il GR tra poco. Le 18:07:38, l'agenzia di stampa Radio Corriere del Sole 24 Ore ha appena battuto una notizia che, se vogliamo, può dare la misura dei livelli di tensione che si sono raggiunti negli Stati Uniti in questi due anni di crisi. Pare che il procuratore del distretto est di New York abbia disposto l'arresto per un gestore di fondi accusato di aver minacciato di uccidere 47 funzionari ed ex funzionari della SEC, che è in sostanza la Consob americana. Bene, noi invece torniamo ai mercati. Vi ricordo la chiusura: più 0,71% sul FTSE MIB e più 0,61% sul FTSE All Share. Quindi positivi. Vi avevamo dato conto di tutto il pacchetto Fiat, intendendo Fiat SPA, Fiat Industrial ed Exor. E veniamo invece al titolo migliore sul FTSE MIB oggi, che è Atlantia, più 5,13%. Gioca qua Paolo Paronetto. La questione Abertis, naturalmente. Sì, esattamente. Abertis ha annunciato questa mattina la volontà di collocare sul mercato la propria quota del 6,68% di Atlantia e uscire così dal capitale, operazione che si è chiusa nel corso della giornata ed è già appunto conclusa. Notizie di questo tipo di solito impattano negativamente sui titoli, ma questa volta, spiegano gli operatori, Atlantia è stata un'eccezione, visto che il collocamento della quota di Abertis era atteso ormai e da mesi, di fatto i titoli scontavano questa attesa e quindi incorporavano già l'effetto negativo dell'uscita del gruppo spagnolo. Inoltre la velocità con cui l'operazione si è chiusa, secondo molti operatori di mercato, testimonia che i titoli Atlantia sono apprezzati dal mercato, per non parlare del fatto che il prezzo a cui la cessione si è chiusa, che è 15,6 euro, è sì inferiore agli attuali corsi di borsa, ma incorpora un premio dell'1,5% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni, quindi per questi motivi Atlantia oggi è salita grazie a questa notizia. Tra i titoli in positivo troviamo anche UBI Banca su del 3,18%, Fiat l'abbiamo detto 2,63%, 2,5% per Intesa San Paolo, 2 punti di guadagno per Prismian e Ansaldo STS, Buzzi Unicem sale dell'1,86%, dell'1,7% la Popolare di Milano, e qua siamo sempre nell'ambito delle banche, come si diceva, che oggi hanno fatto bene tutte. Su un po' tutta l'energia, Saipem 1,5%, Terna 1,44%, A2A 1,15%, Eni che sale dello 0,85%, Enel dello 0,65%. Venendo invece ai titoli in negativo, c'è questa Fondiaria Sai che si prende oggi un'altra batosta, meno 5,45%, Paolo. Certo, Fondiaria Sai l'analizziamo spesso perché spesso ha perso terreno, ricordiamo però che ieri il titolo era balzato addirittura del 17-25% sulla prospettiva di un possibile ingresso dei francesi di Groupama direttamente nel capitale di Fonsai, oltre che dell'azionista di riferimento Premiaf, in intenzione confermata dal gruppo francese. Oggi il titolo ha risentito delle prese di beneficio ed inoltre dell'incertezza di capire come e in che modo avverrà questo ingresso, adesso, dato che, come ha sottolineato anche oggi il Sole 24 Ore, in edicolo l'operazione potrebbe porre problemi di antitrust, visto l'intreccio azionario tra Groupama Fonsai e Mediobanca, che è l'azionista di riferimento delle generali. Allora, giù anche il Banco Popolare, meno 3,48, qua giocano naturalmente operazioni sul capitale, no? Esattamente, l'unica banca negativa proprio continua a perdere terreno dopo l'annuncio dei termini dell'aumento di capitale, che avverrà a 1,77 euro per azioni. Proprio lunedì parte il periodo per la sottoscrizione e delle nuove azioni, quindi il titolo sta iniziando a riflettere l'emissione di questi nuovi titoli e perde terreno ormai per la seconda giornata consecutiva. Tra i titoli da segnalare oggi, giù ST Microelectronics dell'1,41%, nonostante spesso risenta invece dell'andamento positivo del settore dei chip in genere. Abbiamo parlato prima dei dati di Intel che sono stati particolarmente positivi. Tenaris giù dell'1,15, Paolo. Sì, Tenaris risente proprio di quello che gli vertici della società hanno detto nel corso di una conference call con gli analisti, con gli investitori americani. Di fatto i vertici hanno messo in guardia contro le stime che circolavano, le stime medie di mercato sul valore dell'EBITDA di fine dell'intero 2010, che probabilmente è troppo alto rispetto a quello che sarà il risultato vero della società a fine anno. Quindi gli analisti si sono affrettati a correggere le proprie previsioni sui dati di bilancio di Tenaris, se il titolo ne ha risentito. Infine ti chiedo di Seat. Seat è precedenziale al di fuori del FTSE MIB, continua a perdere terreno, il titolo è spesso colpito dalle vendite. Oggi a pesare è stato il fatto che gli analisti cominciano a ragionare sulla necessità di un aumento di capitale per la società. I titoli hanno perso il 2,45%, chiudendo poco sopra gli 0,07 euro, quindi i 7 centesimi di euro, ed è proprio il timore di un aumento di capitale che ha portato gli analisti a rivedere al ribasso le stime sul titolo, a pesare sulle quotazioni. Grazie, grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, grazie a Paolo Paronetto, buonasera Paolo. Grazie a voi e buonasera. Allora, un quadro finale di giornata, insomma, molti dei titoli che sono andati bene oggi. Vi aggiungiamo Finmeccanica che guadagna l'1,02%, così come il Monte dei Paschi, Parmalat su dello 0,8, così come Unicredit, Enel dello 0,65, in pregilo di poco più di mezzo punto percentuale, Telecom Italia di poco meno, Mediolanum dello 0,29, TOTS dello 0,27, praticamente in pari, Snam Rete Gas appena sopra, così come Mediaset, Enel Green Power in perfetto pareggio, Azimut giù dello 0,07%, negativi oggi sono stati anche Autogrill, come si diceva, dell'1,48% e Bulgari del 2,58%, l'euro che quota 1,33,4 contro dollaro. E adesso veniamo al prossimo tema, che è più che altro un'intervista che abbiamo realizzato con il premio Nobel per l'economia Michael Spence. Allora, qualche notizia ve l'abbiamo già data in apertura. Sono quelle che arrivano dalla banca cinese, che ribadisce l'impegno ad aumentare la flessibilità dello yuan, e vedremo se verrà confermato. Nel frattempo il segretario di Stato americano Hillary Clinton dice che la Cina non è una minaccia per gli interessi degli americani, e Washington non intende limitare la crescita economica della Cina. Poi ci sono un po' di dati dagli Stati Uniti, l'indice di fiducia del Michigan che è sceso a gennaio a 72,7 punti, quando gli economisti prevedevano un rialzo, l'inflazione che supera le attese negli Stati Uniti e anche in Spagna, dove arriva un più 2,9%. Abbiamo parlato più in generale dello stato dell'economia mondiale, neanche della situazione d'Europa, appunto col premio Nobel per l'economia Michael Spence. Ascolteremo che cosa ci ha detto subito dopo la viabilità. Focus Economia. Le 18:16 minuti e 42 secondi. Ebbene, abbiamo incontrato Michael Spence qua nella sede del Sole 24 Ore, dove oggi si è svolta la giornata conclusiva di GECO, le giornate dell'economia cooperativa, un convegno organizzato da Lega Coop. E a Michael Spence, premio Nobel per l'economia nel 2001, abbiamo chiesto innanzitutto qual era lo stato attuale della crisi. Insomma, qualche tempo fa alcuni esperti, anche da noi intervistati, dicevano che non saremmo usciti dalle secche per molto tempo. Insomma, mi sembra che queste previsioni siano confermate. Sentiamo però che cosa ne pensa Spence. Penso che questa affermazione sia risultata assolutamente corretta. La ripresa dopo la crisi è stata difficile per ragioni che abbiamo anche previsto, come il fatto che un ritorno alla stabilità richieda un certo tempo e per il persistere di forti squilibri in diverse economie. Quello che invece non sapevamo nella primavera del 2009 è che esattamente un anno dopo avremmo assistito a una nuova crisi associata all'euro e alla stabilità della moneta unica. E la combinazione di questi elementi ha contribuito a un periodo di bassa crescita economica sia in Europa che in America. A period of sort of lower growth in both the EU and America. E poi il grande tema degli Stati Uniti, e non solo, che è quello della disoccupazione. Il presidente della Fed, Bernanke, ha detto che la disoccupazione sarà un problema per molto tempo, anzi per molti anni. Abbiamo chiesto a Spence se è d'accordo. I do. I think that sono d'accordo. Penso che il problema sul lungo periodo sia che le economie emergenti sono sempre più forti e sempre più competitive rispetto alle economie avanzate. Credo che quello a cui assisteremo sarà che in un certo numero di importanti economie industrializzate l'andamento dell'occupazione e dell'economia saranno divergenti. Parliamo molto della crescita come primo problema, ma credo che ci troveremo in un contesto in cui sì, cresceremo, ma allo stesso tempo una parte della popolazione avrà enormi difficoltà a trovare lavoro. Per altri poi gli stipendi non cresceranno tanto velocemente. Questo è il problema, sentiamo qual è la soluzione secondo Spence. That's very very hard. And I think people should first sort of. È molto molto difficile. Penso che una volta che si sia appurato che il problema è strutturale, possono essere avanzate diverse soluzioni. Credo che ci sia comunque bisogno di un approccio che comprenda più elementi. Innanzitutto, puntare sulla formazione e sul capitale umano, così da avere persone con capacità multiple da utilizzare sul campo. C'è poi necessità di investimenti in infrastrutture, in tecnologia, e occorre la garanzia che i distretti industriali, potenzialmente molto competitivi, non scompaiano prima che esprimano la loro efficienza. L'alternativa è invece tutta una serie di forme di protezionismo. And the alternative is a variety of forms of protectionism. L'ultimo punto che abbiamo toccato è naturalmente l'Europa. Insomma, siamo passati, gli abbiamo chiesto, da una crisi del debito privato ad una crisi del debito pubblico. Gli abbiamo chiesto se vede, quando vede, per quando vede la fine di questa crisi del debito pubblico e che cosa possiamo aspettarci anche nei movimenti speculativi per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Penso che nei prossimi anni assisteremo a forme di contagio e la ragione sta nel fatto che è difficile per l'Europa trovare un accordo sugli oneri da sostenere individualmente riguardo i piani di salvataggio. E finché non troveranno un accordo e penseranno solo al problema della liquidità, allora gli speculatori saranno sempre presenti. Alla fine penso però che l'euro sarà preservato e sarà ristabilita la stabilità finanziaria. Credo che siano necessari dei cambiamenti a livello di istituzioni, una volta superato questo periodo di instabilità, e che servano nuove regole per evitare il ripetersi di quanto accaduto in Europa. Ma questo è propriamente un aspetto politico. La questione è se i paesi europei accetteranno una maggiore e reale severità di comportamento sul fronte della spesa e delle entrate. Eccoci qua dunque, per quest'ultima risposta meriterebbe quasi un gufo il premio Nobel per l'economia Michael Spence, ma insomma per oggi lasciamo stare. Parla di evidenti rischi di contagio, anzi che ci saranno, ci sarà un contagio nei prossimi mesi. Noi cambiamo decisamente argomento e passiamo dall'economia internazionale a un prodotto tipicamente italiano, un vanto del Made in Italy e un vanto del nostro export. E questo vanto è il vino. C'è un'indagine realizzata oggi da Wine News tra le 50 cantine più importanti d'Italia, nelle quali si parla finalmente di crisi alle spalle. Ci riassume i risultati di questo studio, di questa analisi, di questo sondaggio, chiamiamolo così, la nostra Valeria De Rosa. Premesso che si tratta di dati raccolti interrogando le singole cantine e non guardando i bilanci, considerando che alle imprese è stato assicurato l'anonimato e considerando che sono state interpellate 50 tra le aziende più importanti per storia, immagine e volume d'affari, dunque non può essere indicativo di tutto il comparto, quello che viene fuori permette di tirare il fiato rispetto agli anni passati e fa ben sperare per il futuro. Il 2010 ha portato un aumento medio dei fatturati dell'8%, ce lo spiega nel dettaglio Alessandro Regoli, direttore di WineNews.it. È un dato sicuramente interessante che sembrerebbe, insomma, aprire qualche spiraglio positivo anche per il 2011. Sulla chiusura del fatturato 2010 si va da un più 2% ad un massimo del 25%. Chiaramente, come dire, si tratta di aziende che vanno dai 10-15 milioni di euro ai 200 milioni di euro, quindi insomma sono aziende di una certa importanza. E poi proprio dall'esame preciso di tutte le risposte abbiamo visto anche che in realtà di queste 50 risposte ce n'è soltanto una o due aziende che hanno avuto un piccolo calo, a fronte però ad un più dell'anno passato. Come spesso succede per le imprese italiane, anche per le cantine sono le esportazioni a correre, più 14%. C'è stato sicuramente un consolidamento dei mercati diciamo più maturi e storici come quelli degli Stati Uniti e della Germania. Ma sono iniziate operazioni anche importanti, interessanti, anche con i cosiddetti mercati emergenti, quindi la Cina, la Russia, l'Estremo Oriente più in generale. A casa nostra invece si soffre. Per quanto gli italiani siano un popolo di buon gustai e fini intenditori, i consumi languono. Il tallone d'Achille è proprio il nostro paese, che comunque rimane uno dei paesi più importanti per quanto comunque riguarda il consumo di vino, quindi le nostre aziende non devono abbassare la guardia e quindi spingersi all'estero e lasciare senza attenzione il nostro mercato, perché poi sicuramente la concorrenza internazionale sarebbe probabilmente pronta ad arrivare. Certo la crisi, certo i prezzi, ma secondo gli imprenditori una piccola colpa di questo calo dei consumi ce l'hanno anche le nuove regole da rispettare per chi si mette al volante. Sicuramente un po' questo atteggiamento anche legato, diciamo, a questa sorta di un clima un po' neo-proibizionista sicuramente non aiuta, insomma, ecco, proprio la nuova regolamentazione che probabilmente sta limitando un po' il consumo di vino nel nostro paese. Notizia di qualche giorno fa, nel 2010 il vino ha corso più dell'oro. Ovviamente si tratta di grandi etichette, soprattutto francesi e in seconda battuta italiane. Certo un investimento per pochi, ma pur sempre una possibilità. Il vino rende di più dell'oro, rende di più del petrolio. Si riferisce in particolare ad una lista di fine wine a livello mondiale, dove ci sono 5 vini italiani soltanto, e quindi lì siamo veramente a parlare di wine blue chip. Questi 5 vini italiani sono il Sassicaia, il Masseto, l'Ornellaia, il Solaia e i vini di Angelo Gaia, quindi si tratta proprio dell'aristocrazia massima dei nostri vini italiani. E poi gli altri vini sono essenzialmente Premier Cru di Bordeaux e qualche altra etichetta del Nuovo Mondo e i Borgogna. Potrebbe essere una tipologia di investimento, fermo restando che prima viene il classico mattone, poi ci sono le azioni, poi sicuramente ci sono tutta una serie di altre cose. all'interno di alcuni settori di investimento ci può essere anche quello dei grandissimi vini su scala mondiale. Siamo quasi in chiusura, abbiamo in studio Giuseppe Cruciani, tra poco la Zanzara. Giuseppe. Oh, eccoci qui, caro Simone, di cosa parleremo? Naturalmente del caso di... Chissà, prova a indovinare. Ma, Tunisia? Mubarak? Un caso che sta diventando anche internazionale, se volete, perché sulla prima pagina di tutti i siti online stranieri, cioè dire, è tornata la vicenda di Rubacuori, ricordate, ed è tornata in grande stile, con Berlusconi indagato, addirittura si chiede il rito immediato da parte della Procura di Milano. Ci occuperemo di questo e naturalmente anche della vicenda Fiat, che proprio verso la conclusione della nostra trasmissione avrà il suo esito. Grazie dunque a Giuseppe Cruciani. Tra poco quindi la Zanzara, si chiude qua questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come sempre in redazione. Ci risentiamo lunedì. Tra gli altri argomenti che toccheremo, uno che vi abbiamo annunciato in apertura, che non siamo riusciti a toccare per questioni di spazio, è quello del turismo. Oggi sono stati dei dati di Federalberghi abbastanza preoccupanti. A lunedì. Radio 24. La passione si sente.